puoi fare tutto in un solo posto. Vieni all'edicola Gerchi, dove risparmiare tempo è un'arte. Ci trovi a Sassari, in via Enea Guarnerio 3, a Carbonassi. Ah già, vendiamo anche giornali. I primi accertamenti sul corpo recuperato dai vigili del fuoco intervenuti con i carabinieri non sono stati rilevati segni evidenti di violenza. In corso le indagini. Prosegue in positivo la giornata di Piazza Affari. Milano arriva a guadagnare il 2,2%, quota 139. È tutto, a più tardi. Non c'è via che aspetta, non c'è via che aspetta, non c'è via che aspetta.